Radio 24 Day, due giorni per capire la crisi. Il 20 e 21 dicembre, dalle 6 del mattino, Radio 24 avrà una programmazione speciale per aiutarvi a capire cosa sta accadendo veramente. Due giornate dedicate ai consigli per i vostri risparmi, comprese le novità della manovra presentata dal governo Monti, ma anche per saperne di più sulla crisi dei mercati finanziari internazionali e sull'andamento dell'economia reale. Radio 24, due giorni dedicati a capire la crisi, il 20 e il 21 dicembre, dalle 6 del mattino.